stato di via, però questo mazzarro, questo mazzarro è tanto per stare che mi sono piccato, capito? Così che... ed eccoci qua. E poi sarei... io e Nini e mi sono messi io che sono qui bene. Io mi sono preparato, non ero sempre avvaccato, invece... Vai, vedi. Ehi, te, siete di ONU, tu, in questa gente, se un torto a pacco, a beccia si può affettare, via, e c'è la divisione, a beccia è vidiolina. Ci ha mai bene, Sara, però, rapido gruppo, sono delle vidiolina, sono delle, capito? Se è torto a pacco, a beccia, su, gatta, c'è la mano, sta via, cai, c'è gente, gatta, ma è in ora buona, gatta. Ah, poi devi guardare, insomma, qui in Treghita. Ma i Firenze sono là? Ah? I Firenze sono? A te la videolina, gatti, la videolina, Non credo sia di Firenze, gatti, è col sabba che fa attente, gatti, li commentano fagete. A casa non deve andare a riparare, se qualcuno è stato un quintale, gatti. E poi la rovina da pure io, Marì. Sto lì, sono in Firenze, gatta. Se te lo so che vende, se beh, pidolina in diretta esse. A te, la televisione è una rubina si infilende, capito? Che è una bella concata che l'ho fatto. Che non mai fini cuore, cazzo mio, a rinviare non andrà bene, capito? Sicché magari noi devo usare forse e per cui, come dire, davanti, finalmente a un stesso punto, poi alla Ferrari so puro, capito? Non mi chiedo che fate davvero sabba, E non che più una facciatura, io marini. Fatele su conto che deve attaccare l'ubito nulla. Non è che c'ha il barriere forse voce, però partenne, capito? Da dire che partenne. Tutto su Mazzano, per cui spesso noi siamo bene, noi siamo bene a mettere accanto a Pirini, a casa sta una, anche come Tesuri, pesa un quintale pesa ognuno. Che mori, no che fa tende meta. Io non lo so perché fa tende meta. E non credo che intanto devi essere fatto di vago vago. Come ti lo che fa tende meta, sabba. Ha cambiato chi tiro. Ah, fa che bene, insomma, fa che questa memoria sta vente, con sabba, tu lì. Insomma, fa che bene suo coraggio, non è? Ma a tu vai la paghi male, ma la paghi bene è un'altra cosa, Tony. Sabba, più che fa che mezzo se, Tony, sempre il suo modo, un butto però. Certo, si fa troppo, gli fa che danno non andrà bene, ma come te como, ti andrà bene, già assorbe benissimo, capito? Come te lo sabba che è passata con Manzano, ora sa che mi manca un guasto in corso, in... Emilia Romagna, questo terremoto qua. Terremoto va bicciato. Terremoto va bicciato a Ferrara, ragazzi, a metà di qualche cosa, ragazzi. Chi mi è morso bada è uno disperso. Quindi quello zella, in te sabba, in te. Sono in te. Tony, evidentemente in usine si intende più, sino che sono in te, no, io, Capito a fare una serena, capito? No, è fatto me. In Parigi a Logo, su, in Emilia Romagna, a Ferrara, a Facca Bologna, insomma andava fatto, ha fatto parecchio danno, tutta tanta sarò contigo, andava bettato, ho voluto l'acqua, un po' di trono, tu, purtroppo è gai, quando, questo su cosa fea, se, Abba no, magari l'abba è diversa, ma lui ha remoto, lui ha povertà, perché questa è brutta meta veramente. Ma comunque uno lo supprimo a Sakhim e manco un guasto, esatto, non mi pare, fa la differenza comunque da uno sciatti, non mi. Speriamo che non sia danno chi non ha fatto danno meta. No, ma sul danno che ha fatto danno non ha fatto meta, quando ci hanno pettato parecchia roba, già, roba antica, io Maria, ci hanno pettato, che io già è... Ma danno meta, ma danno meta. Ehi, sto lì. Cano è questa cosa, io sono da 20.000 veramente. E non mai faccio a nessuno quando viene questa cosa. Lui ha, come noi si, dove fra noi si. Noi siamo partiti lontano da due, però io non ho avuto un, io che si mare morto, e fa che danno a vino, tiene questa cosa. Sì, su mare morto, noi che gli mari, a quando devi fare a biglia, devi piegare canale, mi sa. Ehi, Tony, lui ha un fusi, abbiamo un fusi, Tony, no, cosa brutta sei, cosa fea veramente, però purtroppo questa cosa succede, o voi il gamma succede, auguriamo che non pensa mai ai no che vuoi a te, nei no che devo dare per essere, e via, se no no, questa cosa si fea veramente, non basta so che su vedo mi chiede a questa tribuna comunque. Fate il conto, ma mezzo sono remoto io mari. La prima cosa che cadrà adesso è a Cosumi, tutta questa che sono due mare, compreso, che vetta 40, che manta chilometri sono, a quando arrivare ai 9, pure che siamo a 30 chilometri noi, sì. Cazzo deve brincare le montagne a me, e lo impara si cammina, però deve calcolare la montagna pure e tutto questo potere che bisogna. Sono lì, questa cosa su un ferro, auguriamo che non vendano mai, non riusciamo a andare con occhio di questa cosa a noi. La fai le prese già, a pagare non fai il tempo da fuire, e usa su cosa brutta veramente, ma fea. Per cui, ma fai da un'altra cosa che mi è tutto lì. Dirò, non ho messo la tristetta, va bene, lui ha... Già ne dimmi le cose da vera veramente. Chi è che chiama io? Marie. Buongiorno, chi è che ha salutato avanti? Buongiorno. Vabbè, ma ci sopravviviamo. Tony. Era mio. Chi è che ha salutato? Boh, non l'ho inteso, Deono. Avanti col buongiorno. Buongiorno, Giuseppe, da questa parte, di buona domenica. Ah, tornato esce. Buongiorno Giuseppe, ben sentito, in compagnia di Gio Maria, vai Gio Maria. Poi, signor Giuseppe, buongiorno, buona domenica. Cazzo, io pensavo che ia facendo l'infilata, tu pure, cazzo, invece sei a casa, non me lo dire Giuseppe. Ah, picchino, mi sembrava che ci avevo visto in televisione, in videolina, poco fa, invece sei a casa, positivo. E niente, stavo andando a cercare Graziano per quell'autografo, invece non l'ho trovato, ecco perché mi hai visto. Graziano, a quanto so, è in tournée, mi sembra che sia l'Isola Rossa, da venerdì. Doveva andare a Isola Rossa perché doveva fare lo spettacolo lì, così che non l'ho sentito per niente io, ma prima o poi senz'altro ci farà vedere, ma è sempre impegnato questo periodo, capito Giuseppe? Se dovessi sentirlo riferisco il messaggio, capito Giuseppe? Positivo Giovanni, positivo. Ciao Benito, ben sentito anche a te, buona domenica. Torino, lo senti a Giuseppe? Ma poco fa lo sentivo? Poi è sparito, non so se lui ascolta a me, come? Giuseppe, ma Tonino la senti? Io lo sento a Tonino, con la speranza che lui riesca a tirar fuori a me. Sono in BM, a casa già. Ah, ecco, in BM sì, ecco. E non ti avvicinare molto la bocca al microfono, se no c'è leggermente l'innesco, Giuseppe. E più poco fa ti ha sentito, ma adesso non ti sta ascoltando. Vedo un po' se ti ha ascoltato. Vai, Tonino. Sì, l'ultimo passaggio che ha fatto l'ho sentito, e ha detto che da casa sua mi sentiva più forte. E lui adesso è in BM, magari. Sono negativo a verme, capito? Ok, dove sei Giuseppe? Dimmi, dove sei che ti sente più? In questo momento sto salendo in via Grazia Deletta, Gianmari. Ah, già, grazie a lei. Sempre più su sali e dopo riuscirai senz'altro a sentirvi anche più bene. Ma dove sta andando? A vedere la cavalcata? Non è cattivo, l'ho vista quando ero piccolino e già va bene. Allora secondo me è abbastanza, l'ho vista, visto che adesso non più mi. Poco fa si è giù la televisione ed è a Vidolina in diretta e cazzo, poveri, tutti a ombrelli aperti e tutti tricia so Giuseppe. Cappa, io addirittura credevo che non sfilassero, ma se facevano una bella mangiata tutti assieme ne la finivano lì, tanto non è tempo, mi Gio Mario, ho visto che sta anche aumentando l'acqua. E infatti allora, e stanno male perché l'acqua è forte, per cui cose sono tutta la mattina in mezzo all'acqua, per cui anche se c'erano ombrelli, però si bagnano, sono bagnati, sono tutti tricciatrizza, va. Speriamo che finiscono in fretta, almeno si ne vanno e si asciugano. Ok, vai Tony. Chiama Roger. A quando finiscono il costume peserà un paio di quintali, come prendo tazzi d'acqua? Certo, già che pesano di cose quei costumi, e adesso il zuppato di acqua pesano di più. Niente, José, riprenditela. Positivo, ma a parte quello ha rischio anche di rovinarsi, perché so che ci sono costumi che costano più di 20 milioni. Lo so, infatti, ma ormai sanno già cosa possono fare per non andare in malora quella roba, capito? Già ci tengono a queste cose, per cui sanno come sistemarli a perfezione, capito? Purtroppo è già parecchi anni che io vedo che le cose non stanno tanto bene, capito? Il tempo non lo permette, certo che non ci voleva, capito? Però purtroppo chi comanda è Salvatore, quello di su, Giuseppe. Infatti, a lui già non si comanda, mi. Quello che ci manda ci prendiamo, Gian Maria. Sì, io se mi dice vai là, io vado, dopo in caso mai in cammino si accolta lo barri, lui si aghiglio. Tori! Ja, siamo di nove. Io, canta Tori. E ho la cosa è triste veramente. Questi terremoti, cazzo, adesso ci voleva anche il terremoto a Bologna, così è Tori. Sì, alla zona lì di Bologna, vicino a Bologna, Ferrara e in quei paesi limitrofi, ha fatto molto bello. Stamattina alle 6:30 ho sentito sul telegiornale, sulla radio, che stavo seguendo, e uno alle 5:15, però poca differenza da uno all'altro, capito, dalle due scosse. Hai sentito Giuseppe? Ah, che terremoto c'è in Italia, due volte. Non basta, Gian Maria, come siamo finiti. Adesso ci manca quello pure, così siamo a posto. Allora, non basta quello che è successo, anche quello ci vuole. Adesso trattate, terremoti, e robe varie, Giuseppe. Boh, fare l'Italia. Chissà che non se ne svegli qualcuno a mettere a posto bene l'Italia. Ma speriamo, ma penso che sia un'impresa, mi. Non lo so, Gio Mario, ma penso che sia difficile. Avanti, Tonini. Certo che ci voleva una passata di quello, su quello che si deve svegliare. Almeno aveva fatto pulizia la cosa lì al governo. Tonini, quelle tre bombole che hanno messo, non dovevano mettere lì. Dovevano mettere là, dove c'ho tutti i pezzi grossi, lì dovevano metterle, in modo che non se ne salvava nemmeno uno. Hai visto là, poverina, una ragazza di 16 anni, in un mitra di piscina, tutta quanta l'hanno ripiazzata perché l'ha disintegrata. Vedi. Ne facciamo sbagli nella vita anche noi, casa, ma quando mai i bambini cosa c'entrano? Là dovevo andare, là dovevo andare tu lì. Quel palazzo bisogna distruggerlo completamente. Purtroppo visto hai. Hanno messo una 3 bombole di gas e non so quante cose. Te l'ha comandato con un corso. Per fortuna il pullman è arrivato in ritardo, se no era stata una strage. Sì, ma andato bene, Giuseppe. Ma io do ragione a Gian Maria, cioè non si può prendersela ogni volta con gente innocente, con ragazzini, sotto il culo di quei 4 delinquenti che ci abbiamo a Roma la dovevano mettere, ha ragione Gian Maria, e che non se ne salvasse uno ma la sorte, cata. E allora, cata. Adesso magari ci mettono dentro persone che non c'entrano pure, capito? Fanno questo lavoro, capito? È proprio quelli proprio che sono fuori. Per carità, che sbagli che hanno fatto un errore grossissimo e ne stanno facendo. E allora invece metterli lì, perché non vanno là? Perché di qui lì non se ne deve salvare uno, se no va in rovina ancora, peggio di come siamo rovinati. Sentito ieri una trasmissione quando hanno ammazzato a Falcone, qualcuno aveva detto che la cosa che la mafia non era Palermo, la mafia era su, perché cioè da su, quando Falcone era a Milano, che hanno avvisato allora che è partito, allora che doveva arrivare in Sicilia, figurati se la mafia era Palermo. Ma fanno così allora, fanno così, già ce ne sono, ma dentro ce ne sono più innocenti che quelli proprio del mestiere, capito? Perché adesso mettono, senz'altro, ci mettono un saccaccio di gente in mezzo e senza rettarci e uscirci, capito? Ma vogliamo, se no è quella faccenda. Io dico solo questo, che non dovevano fare quello che hanno fatto, dovevano farlo là, non lì dove c'erano i bambini. Allora, proprio vedi gente che non lo so, guarda, non ci sono parole per descrivere una cosa del genere, ma io dico, con tanti posti che ci sono, con tanta gente che sta facendo male, cosa c'entravano con le povere anime? Ti dico una cosa, Giuseppe. Verrà il giorno che la metteranno anche lì la qualche carica. Speriamo che sia vero, perché guarda, lì sarebbe stato l'ideale. Magari saranno progettando, chissà quanta gente sta pensando, facendo il progetto per metterla lì la bomba, quando sono tutti quanti in riunione. Poi ci dico una cosa, c'hai ragione che la mafia non era a Palermo ma era su a Roma. Ed era il corpo il capo della mafia. Quello è normale. Ma tu te li immagini che quando hanno messo tutto il tritolo, quando hanno scavato quella galleria sotto l'autostrada, loro sapevano già a che ora era partito Falcone da su. Te li immagini? E poi dicevano che la mafia a Palermo, la mafia era su, che gli ha dato tutte le indicazioni possibili e immaginabili. Perché a coso, a Moro, chi l'ha fatto ammazzare? L'hanno fatto ammazzare loro stessi. Coppo, sempre lui c'è in mezzo. Sempre il coppo. Oh signori, qui intorno a Sassari si sta vendendo una dieta che non promette niente di buono. La sto vedendo che è un po'... No, a Sassari non lo vedo niente adesso. Vede tutto quanto, da quanto sta piovendo, perché sta piovendo molto. Tony, io mi assento, va. Buon proseguimento di giornata, dai. Ci sentiamo, ciao Giuseppe, ciao Torino, mi assento Tony. Riprendi tu con Giuseppe, QRT per me, dai, che devo fare cose. Ok, Tony. Bene, bene, buon correttivo, una carica con tutto, vai Giuseppe. Ciao Gian Maria, buon tutto, dai, ci sentiamo presto, ciao. Forse sta piovendo lì Giuseppe Sassari. Già cane sta pompando, Tortini. Sembra così, ma adesso sono boccioloni che stanno arrivando. Anche qua ha cambiato rotta, sta aumentando. Poi l'aria è bella densa, sta arrivando bella nera. Io adesso sono passato dalle parti di Serrasecca e ti dico che l'aria intorno a Sassari non promette niente di buono, anche perché si è messa questa mezza foschia strana. Infatti anch'io lo vedo da qua, prima vedevo il coso, il grattacielo e tutto via Milano, adesso non vedo niente, non si vede niente. Come hai detto tu, quella foschia che si è messa in mezzo, ma c'è anche acqua in mezzo. Positivo, positivo, Tonini. Ma guarda, io ho visto già da venerdì le previsioni del tempo e aveva messo domenica mattina acqua e non se l'ha sbagliata. Ma io ho ascoltato anche il coso, il marino, ieri, che per oggi c'era questa perturbazione che stava arrivando e ha messo acqua. E così che non si è sbagliato. Positivo. Ma mi sa che ci sia acqua anche domani, Credo che ci sia acqua anche domani, anche se stamattina sul 2 ho sentito, non so se erano camionisti col baracchino o autisti di pullman, contentissimi per la vigna. Fa bene alla vigna, fa bene. Però ai pastori che hanno tagliato il foraggio sono dolori, E infatti ho visto in diversi posti che hanno già tagliato e imballato, quello non so quanto gli possa far bene. Quando è imballato magari sono a rotoloni, già sanno, dipende come sono anche messi, perché ci sono quelli che mettono il coso, il nylon, ci sono quelli che usano la corda, magari bagna il primo strato e poi l'altro già lo salvano, ma chi ce l'ha tagliato è un caos. Certo, Tony, chi ce l'ha tagliato è in terra. Io penso che se non perda tutto, ma quasi. Speriamo che riescano, magari lo girano quando sta facendo il sole, che lo asciughi, però se fa acqua anche domani è macello. Speriamo bene, dai, già passerà anche questa perturbazione, mannaggia. Appello, e dicono che ci abbiamo siccità, piove e ci sono sempre problemi. Oh, mamma mia. Non siamo mai contenti, mai contenti. Ma guarda, io mi ricordo poi la settimana scorsa, due settimane fa, si stavano lamentando tutti per la siccità. Io guarda, ero a Corso, che stavo lavorando lì a Corso, a Corso di Marinella, a Porto Rotondo, ed erano già in Corso, in due pezzi. C'era caldo, ma caldo davvero. Poi c'è stato un paio di giorni che sempre vento, sempre vento. Infatti il vento qui è micidiale, qui ci nasce il vento. Ebbene, specialmente il maestrale, nasce qua. La cinciola è una cosa che non si crede. E poi guarda, Ottonini, arrivati a un certo punto non sai manco più come vestirti. Ieri ci avevamo 23 gradi e oggi la macchina ne sta segnando 15. È calata molto la temperatura, perché sta facendo fresco. Ieri c'era caldo da morire, perché stava facendo caldo ieri, magari era afoso, perché non era caldo giusto, ed era il caldo che portava l'acqua. È positivo, positivo. Vediamo un po', amico, se vuole entrare il fischietto, avanti sul canale 5. Io ho sentito che ha fischiato, avanti il fischio. Ma quando gli diamo l'ok non vuole entrare nessuno, quando stai parlando ti sovramodulano. Sì, lasciali fare Giuseppe, lasciali fare, anche loro ci vogliono. Positivo, Tony, dai, ce l'abbiamo di culo. Oggi e domani pure, dicono a Sassari. Questo è per essere gentili. Più gentile di così si vuole, Giuseppe. Oia, mamma mia, cara. Oh, intanto venendo scherzandomi, tutti, Tony, abbiamo fatto mezzogiorno. Vabbè, io intanto che non sapevo da fare niente, mi sono svegliato presto, avevo acceso alle 6 a vedere, con la speranza di sentire qualcuno che viaggiava venendo qua a Sassari. Invece nessuno, non ho sentito nessuno. Niente. Anch'io ho acceso freddo stamattina perché ho messo a scaldare tutti gli apparecchi. E li ho messi tutti quanti, uno a un canale diverso. Un mortorio, guarda, che non veniva bene a dirlo. E infatti ho visto che qua non c'era nessuno, allora mi ho fatto un po' di ascolto su altri canali e lì ce n'era movimento. Positivo, anche ieri sera c'era una propagazione, guarda che per carità. E ieri c'era bella propagazione, ma anche stamattina verso le 7:30 c'era propagazione sia sul 5 che sul 45. Poi tutto ad un tratto è calato, boh, non ho sentito più nessuno. Però nell'altro apparecchio che stavo ascoltando c'era in circolazione Genova, Milano, Firenze, insomma una quindicina di città c'erano tutto in movimento. Arrivavano forte proprio a corso, tutti a fondo scala. Positivo, Gio Mario. Io ieri sera sono riuscito a fare un paio di minuti di QSO con la Sicilia. Ho beccato due camionisti siciliani e un paio di minuti me li sono fatti. No, stamattina verso le 7:30 ho parlato con Stazione Fissa, con uno di Reggio Calabria, però è durato poco, 5 o 6 minuti e poi è caduta, non ho sentito più nessuno. Positivo, altrettanto ho fatto io ieri, però questo in camion doveva essere attrezzato bene, perché qui guarda, io ero in macchina stesso, ma stava arrivando come una fucilata. Quelli, Giuseppe, sono carichi qui. E faccio il conto che una ventina d'anni fa ho accompagnato uno da Padova sino a Venezia. Ed era sempre a fondo scala, non calava neanche un puntino di segnale, sempre il solito segnale, sempre 9:30 a fondo scala, però stava sparando un kilowatt e mezzo. Ci credo, Montoni, quelli in cabina hanno facimme grandi quanto batterie di camion. Infatti le ho detto quanti rischi sta parlando, ho detto sui 1.500, era proprio bene la batteria. Infatti Tony, ma quelli non so fino a che punto gli convenga a me, perché tanto ho sentito che ti fanno partire batteria, alternatore, cantopada. E vabbè, magari sono amplificatori che funzionano a 24 volts. Probabile. Mi è sembrato aver sentito Tony chiamare e niente, proviamo a far entrare. A volte chi vuole entrare? Ciao Salvatore, ben sentito e buona domenica, in compagnia di Giuseppe, nonché tornato in movimento. Vai Giuseppe, brillo. Ah, infatti io, Tony, mi era sembrato in lontananza di sentire un Tony, poi ho schiacciato io il mic, però già me lo sono memorizzato in testa. Ciao Pirillo, ben sentito e buona domenica anche a te, ti sento più pio, avanti. Appena la cosa è tripula, però adesso l'ho perso, Tony. Capo, avanti il becco. Capo, buongiorno a tutti, dai, giovedì più. Ciao Birillo, come va? Tutti scappati, l'ho interrotta perché stava piovendo a dirotto e c'erano tutti i gruppi bagnati e cosa non faceva. Peccato perché anche le barcarelle che dovevano lavorare oggi hanno caduto a bucca. Vabbè, speriamo come vede, purtroppo il tempo non possiamo cambiarlo, dai, avanti tu. Ma mi chiedi anche Giuseppe, è tornato già. passerà bene e buon tutto, ci sentiamo presto, dai. E salutoni anche a Birillo, non so se riesce ancora a copiarvi, ci sentiamo presto. Ok, ciao Giuseppe, buon rientro, buon tutto e buona carica. Vai Gianni. Come mi ascolti, sono a tenere un piccolo piccolo. E quindi stavolta anche tu c'è bisogno di tutto. Almeno. Con l'acqua. Ciao, vai, vai. adesso, mi cammino verso casa, perché avevo lasciato la macchina parcheggiata, sono andato a piedi, la cavalcata, ma visto considerato che non c'è più nulla, mi cammino a casa. Ma speriamo che stasera non faccia l'acqua, almeno andiamo a guardare qualche bancarella se funzionano. Poi stavamo ritirando tutto, ho visto che ci sono i camion che stavano tutto ritirando veloce, tutto il palco, tutto e stavano quelli della cooperativa Sarda Nord, c'erano che stavano già manovrando con i camion. E allora stasera non c'è niente. Chi lo sa. Magari qualcuno rimane, qualche eroe. Magari con la speranza di almeno di ricavare i soldi del gasolio. Molta gente viene da fuori, mi vengono da Cagliaritano, l'Oristanese, cioè che viaggiano da fuori. E più di uno ce n'è. Ma fatto. Vi devo lasciare che mi hanno chiamato a mettere qualche cosa sotto gli denti. Ce l'ascoltiamo alle prossime, oppure più tardi se coincide. Ciao Gianni e ciao Salvatore, a più tardi. Ciao Paconi, dai, buona carica quando la fai, dai, ci sentiamo. Avanti Salvatore. Già a casa, ti saluto anche io, dai, e ti auguro una buona domenica, ci sentiamo e buon tutto. Ciao Gianni, buona domenica a te, tra poco arriviamo a casa, ci facciamo una doccia e vediamo cosa ci sta nel piatto, dai. Ehi, dai, ciao Salvatore, buon tutto.